di tempo che si sente sbrasbra. Non c'è mai niente che davvero come sembra. Luccica la notte in centro come l'Ambra. Tre proiettili per gamba come anni 70. A Roma un po' di tempo che si sente sbrasbra. Non c'è mai niente che davvero come sembra. Luccica la notte in centro come l'Ambra. Tre proiettili per gamba come gli anni 70. Sposto capitali da capitale a capitali. Alexito Caps Lock scrivo lettere capitali. Capita che gruppi siano capitanati da capitani sbagliati, tali capi vanno decapitati. Capito che vengo da Roma, la capitale delle capitali, monumenti, chiese e cattedrali, giovani pazzi eroi, romanzi criminali, ministri ammaestrati, servi, porci e cani. Animale più degli animali, sacerdoti, preti, pedofili nei confessionali assolgono peccatori. In piazza pezzi di pizza, attenti ai pazzi, quei pezzi appizzati nei cruscotti, poliziotti corrotti. I negozi pagano il fisso, tu non sai niente, sito. O ti picchi o ti pisci, non c'è sei soldi per l'affitto. Dal gramma al mezzetto, finché non t'arrestano. Un consiglio fai come me, scappa all'estero. A Roma un po' di tempo che si sente sbrasbra. Non c'è mai niente che davvero come sembra. Luccica la notte in centro come l'Ambra. Tre proiettili per gamba come anni 70. A Roma un po' di tempo che si sente sbrasbra. Non c'è mai niente che davvero come sembra. Luccica la notte in centro come l'Ambra. Tre proiettili per gamba come gli anni 70. Roma affonda, ci manca solo la bomba. Mazza fionda contro manganello tomba. Ronda di ex colleghi della bomba. Alberto tomba la rotonda, bond amore bionda e minigonda. Le veline dell'ombra, quelle che non vanno in onda. Sempre pronta, bim bam bum. Toro da monta, Roma conta di nuovo. Ogni settimana un morto, come negli anni di Moro. Le pistole fanno fuoco. Blocco dei colleghi di Rosca e Poncerello. Cocco nei gioielli quando esco dal bordello. Modello di gestione, strategia della tensione. Porello quello che salterà con la stazione. Roma affonda, se ne vanno tutti a Londra. I rumeni se ne stanno tutti a Roma. Roma c'ha la storia, evasione sanatoria. Roma costa storia, fa come costa Concordia. A Roma un po' di tempo che si sente sbrasbra. Non c'è mai niente che davvero come sembra. Luccica la notte in centro come l'Ambra. Tre proiettili per gamba come anni 70. A Roma un po' di tempo che si sente sbrasbra. Non c'è mai niente che davvero come sembra. Luccica la notte in centro come l'Ambra. Tre proiettili per gamba come gli anni 70. A Roma un po' di tempo che si sente sbrasbra. Non c'è mai niente che davvero come sembra. Luccica la notte in centro come l'Ambra. Tre proiettili per gamba come anni 70. A Roma un po' di tempo che si sente sbrasbra. Non c'è mai niente che davvero come sembra. Luccica la notte in centro come l'Ambra. Tre proiettili per gamba come gli anni 70.